1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:18 ormai, quasi, tra 10 secondi, 9, 8, 7, qui a Radio 24. Allora, siamo pronti nella lettura dei giornali, in questo che è il mio terz'ultimo giorno di lavoro qui prima delle ferie. Ovviamente, come potete immaginare, i giornali sono quasi tutti con le aperture alla nuova strage che è avvenuta in Francia, il nuovo attentato terroristico. E allora andiamo a sfogliarli. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Allora, sono le 7:18, come detto, di questo mercoledì 27 luglio. Intanto i titoli, le aperture. Il Sole 24 Ore ha una doppia apertura: l'orrore in Francia, l'ISIS uccide in chiesa, ma anche Montepaschi Siena, accordo più vicino, aumento fino a 5 miliardi. Questo è il titolo di prima pagina. Ed eccola allora la carrellata dedicata a quello che è successo in Francia. Il terrore colpisce in chiesa. Corriere della Sera è il titolo e giustamente mette una data, 26 luglio 2016, perché in qualche modo è una data che segna un punto di non ritorno, no? L'ISIS che colpisce in una chiesa in Europa, in Francia. La jihad uccide in chiesa è il titolo di Repubblica, mentre per Il Giorno ISIS taglia gole in chiesa. Per La Stampa il terrorismo colpisce in chiesa. Avvenire a questo titolo: odio contro amore, assalto a una chiesa, sgozzato l'anziano prete. Hanno sgozzato Dio, questo è il titolo del Giornale. Mentre Il Messaggero: sgozzato in chiesa, offensiva ISIS. Per Libero: occhio, ti sgozzano in chiesa. Il Fatto Quotidiano: pregiudicato ISIS, ma Libero sgozza il prete sull'altare. Il titolo del Manifesto: senza pietà, e c'è la foto della chiesa in questione. Mentre L'Unità titola, in maniera anche enfatica, attacco in Normandia, che riguarda altre fasi storiche, ma si cala perfettamente anche in questa. E allora che cosa è successo? Vado a leggere la cronaca di uno degli inviati del Corriere della Sera, Andrea Nicastro, a pagina 2. Nessuno è al sicuro, non c'è un posto dove lo Stato Islamico non possa arrivare. La guerra in Europa, tra noi, su un treno, allo stadio, al tavolino di un bistrò, sul lungomare, in una chiesetta di campagna. Il villaggio di Saint-Étienne-de-Rouvray non ha niente della banlieue degradata, niente di simbolico, niente di importante. Qui la vita è lenta, sa di fieno, noia, formaggio. Ambroise vende i giornali appena al di là del cordone di polizia che impedisce di avvicinarsi alla chiesa dell'orrore. Potrebbe scommettere che nessuno gli ha mai chiesto una sola copia di Charlie Hebdo. E ad essere sincero, neppure Ambroise ha mai avuto la curiosità di guardare una vignetta satirica su Maometto. Ci sono 4.000 chiese in Francia. 3.000 sono più o meno come questa, il tetto aguzzo nero, la pietra chiara a disegnare gli archi gotici. Ieri, alle 9.43, due terroristi entrano dalla sagrestia. La prima messa del mattino sta per finire. I crociati che volevano colpire erano 5. Padre Jacques Hamel sull'altare, poi due suore e due fedeli tra le panche. Sembravano invasati, ha raccontato Suor Daniel. Gridavano Daesh, Daesh, Allah Akbar. Uno dei due è stato identificato come Adel Kermish, 19 anni, seconda generazione di immigrati magrebini, francese di cittadinanza. Per due volte aveva cercato di andare in Siria, forse come un fratello. Volevano che padre Jacques si inginocchiasse. Giravano attorno all'altare facendo una specie di proclama islamico in arabo. Tutti gridavano: fermatevi, non sapete cosa fate, è una follia. Ma i due avevano i coltelli e minacciavano tutti. Inginocchiati, avrebbe detto al prete. 86 anni, il religioso ha forse difeso la sua chiesa dal sacrilegio, forse ha solo reagito da anziano all'arroganza dei due ragazzotti. L'hanno sgozzato. Padre Jacques non ha voluto inginocchiarsi, ha resistito e credo che tutto sia degenerato in quel momento, dice la suora, che è riuscita a fuggire nella concitazione ha dato l'allarme. In tempo record la zona è stata isolata, sono arrivati le parti speciali, il resto, come dire, è storia. Le due persone sono state neutralizzate, come si dice in gergo in questi casi. Ovviamente si guarda a che cosa? Beh, intanto al profilo di uno di questi due terroristi. Uno era minorenne, uno è questo Adel Kermish, 19 anni, l'attentatore col braccialetto elettronico, uno che era in carcere fino al 22 marzo scorso con un braccialetto elettronico al polso, è uscito un individuo schedato con la lettera S, cioè il rischio degli estremisti islamici che possono radicalizzarsi e colpire da un momento all'altro, quindi in qualche modo era controllato, si sapeva chi fosse. Tanto che ovviamente ora le polemiche ci sono proprio sulla questione della sicurezza. Guardate anche il titolo del giornale: Adel in libertà vigilata e il suo amico minorenne, i macellai sono ragazzini. C'è questo titolo sul Messaggero, perché ovviamente in Francia si parla molto di quello che è successo dal punto di vista della sicurezza. Ricordate che anche a Nizza ci sono tutte le polemiche per una Promenade des Anglais che non era blindata, tutt'altro. E allora questo titolo del Messaggero: ci vuole una Guantanamo francese. Francesca Pierantozzi racconta come il dibattito in Francia sulla sicurezza sia molto molto vibrante. Pagina 5 del Messaggero: questa volta sapevano tutto, eppure nemmeno stavolta è stato possibile prevenire. Sapevano i servizi, sapevano le autorità, sapeva la polizia, perfino i giornalisti sapevano che le chiese sono un obiettivo dei terroristi. Lo sapevano dal gennaio 2015, dopo Charlie. Sapevano che la Normandia è una regione a rischio. Sapevano che Saint-Étienne-du-Rouvray non era solo un piccolo comune a 5 minuti da Rouen, ma una piccola Molenbeek della campagna francese, un centro di reclutamento per il jihad in Siria e anche in casa. Conoscevano i nomi dei terroristi schedati con la lettera S, ovvero pericolosi per la sicurezza dello Stato, come i fratelli Kouachi, come Ahmedi Koubali, come Abdelhamid Abaoud, come altri migliaia di potenziali jihadisti con passaporto francese. Allora, in Francia ci si chiede, ora va cambiato tutto. Cambiare tutto, non si parla neanche più nemmeno di falle della sicurezza, ma di impotenza, di necessità di rivedere le leggi, l'organizzazione dei servizi di informazione, l'unità nazionale non esiste più. Ieri il Fronte Nazionale, senza sorpresa, ha denunciato il lassismo dei governi degli ultimi 30 anni, l'islamismo e l'immigrazione. L'ex presidente Sarkozy, da parte sua, ha dichiarato che bisogna cambiare tutto. Sulla protezione dei luoghi di culto, in particolare delle chiese cattoliche, è difficile che si potrà fare di più. Ma certo, il dibattito in Francia, qualcuno dice, ci vuole una prigione speciale per i jihadisti, non lasciarli con il braccialetto elettronico. Hollande dice, vinceremo questa guerra. Il presidente francese si è recato immediatamente sul posto e ha detto, dovremo vincerla questa guerra, ma certamente il dibattito è molto molto forte. Tra l'altro, perché si è colpita la Chiesa? Guido Limpio, pagina 11 del Corriere della Sera. Esattamente un anno fa, Dar al-Islam, una rivista online in francese dell'ISIS, è uscita con pagine piene di consigli operativi. Ha invitato i seguaci in Occidente a colpire i cristiani con l'obiettivo di piantare la paura nei loro cuori. E ha indicato i bersagli, tra questi le chiese e i luoghi di culto. Poi c'era un'annotazione indirizzata ai cosiddetti lupi solitari. Non importa l'arma che usate, sia anche un coltello da cucina o un altro oggetto tagliente. In seguito uno dei kamikaze del 13 novembre, Bilal Adfi, aveva esortato a fare lo stesso nel suo testamento. Qualcuno ha letto con attenzione, poi ha eseguito, trucidando il povero parroco nella chiesa francese. L'atto barbaro, scrive Guido Limpio, arriva alla fine di un lungo processo con quattro fasi. Il progetto, l'organizzazione, l'influenza e poi la propaganda. In cima alla piramide c'è l'idea jihadista lanciata dal califfato. Una doppia strategia, oggi sulla difensiva nei territori medio orientali a causa dell'ampia pressione militare e all'offensiva all'estero grazie all'estrema adattabilità dei suoi membri. In questi mesi, semplici, simpatizzanti, militanti stagionati, reduci di guerra e di galera hanno risparmiato pochi target. La campagna d'Europa è iniziata con la strage del Museo Ebraico di Bruxelles, maggio 2014, ed è poi proseguita con treni, un teatro, i pub, lo stadio, un aeroporto, una stazione, due concerti, i fuochi d'artificio a Nizza, infine la chiesa. E questa è l'analisi di Guido Limpio, che dice: su questa rivista Dar al-Islam, rivista online, c'era già tutto, anche gli obiettivi dove colpire. Ovviamente il dibattito è, e questo è il rischio di cadere in questa tentazione, è una guerra di religione. Lo dico io che per primo ho sempre detto che la religione c'entra, mi sono sempre battuto con coloro ciechi, sordi, che non vedono e dico: no, la religione non c'entra nulla. Come fai a dire che la religione non c'entra nulla quando entrano e sgozzano un prete in una chiesa? Però dire la religione c'entra vuol dire non far finta che non esiste un problema, ma è chiaro che la situazione è molto più complicata, molto più complessa. Dire è una guerra di religione, secondo me, è una boiata pazzesca. È una boiata pazzesca. Per la terza volta, è una boiata pazzesca. Però la questione religiosa c'entra, e come. Ed ecco allora che sia sull'Unità sia sulla Stampa due esponenti delle comunità musulmane in Italia, Izzedine Elzir sull'Unità e Abdelhamid Shaari sulla Stampa, responsabile del centro di Viale Jenner, istituto islamico di Viale Jenner a Milano, mentre Izzedine Elzir è il capo dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, parlano. Izzedine Elzir dice: quella della comunità islamica è una condanna senza se e senza ma a questi attentati. Lo stesso dice Abdelhamid Shaari, intervistato dalla Stampa: nel mirino ci siamo anche noi musulmani. Gli estremisti vanno denunciati, attentati da condannare al 100%. Sono assassini e non possono parlare a nome dei musulmani. Così dice Abdelhamid Shaari. Signori, che dire? Intanto l'Italia, eccolo qua il piano del Viminale, perché il Viminale, cioè il Ministero dell'Interno, è inutile negare che si guarda anche l'Italia, si guarda con preoccupazione a quello che sta succedendo. Fiorenza Sarzanini racconta a pagina 9 del Corriere della Sera come in Italia si appresti a intervenire in caso di attentato, anche qui. Non diciamolo più sottovoce, potrebbe accadere. E allora, se la chiamata dovesse arrivare da un luogo che si trova a nord di Roma, saranno a disposizione i comandanti dei GIS e dei carabinieri, mentre a sud della capitale il comando spetterà ai NOX della polizia. In entrambi i casi si tratta di operazioni di altissimo rischio che prevedono incursioni, eventuali negoziazioni in caso di presa di ostaggi. E in caso di emergenza potranno essere utilizzati anche gli specialisti del Consubine e del Colmoskin, ai quali saranno assegnati temporaneamente qualifiche di agenti di pubblica sicurezza in modo da poterli impiegare anche per eventuali perquisizioni e arresti. Sono già state effettuate 4 esercitazioni, fa sapere il Corriere. In più, ieri sono state sollecitate 2 nuove espulsioni, ultime di una lunga serie di misure prese dal ministro Alfano su segnalazione dell'intelligence. Si tratta di stranieri che hanno avuto contatti con foreign fighters o comunque con ambienti legati al fondamentalismo, ma anche persone che hanno inneggiato all'ISIS, sia frequentando siti internet specializzati, sia muovendosi in quei luoghi di aggregazione che possono trasformarsi in aree di reclutamento. Dall'Italia sono stati già allontanati più di 100 islamici, tra loro anche numerosi predicatori. Insomma, il piano del Viminale, del Ministero dell'Interno, purtroppo è questo qui. Vabbè, niente, oggi gli articoli da Mani sul Volante sono sospesi, perché sono tutti questi da Mani sul Volante, sono tutti questi che ci fanno veramente incazzare come delle bestie. Ciao Milan, che te mozzino via fuoco. Oh, il grandissimo Angelino. Allora, alle 7:34 minuti affrontiamo ora la questione della politica, dell'economia, delle altre notizie sui giornali, cominciando dalla politica. Allora, ieri Renzi era al sud a fare un giro in alcuni punti del sud, tra cui anche San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, dove ci fu la tragedia con il terremoto, la scuola crollata, 27 bambini morti 14 anni fa. però ha anche affrontato il tema della Salerno-Reggio Calabria, ha detto, sfidando, no, anche coloro della stampa estera che avevano riso sguaiatamente, lui dice, ha fatto capire quando aveva detto la Salerno-Reggio Calabria sarà finita entro dicembre di quest'anno, ebbene, dice, via libera un tratto della 3, mancano 800 metri di galleria e Renzi ha annunciato che e ha ribadito che a dicembre verrà terminata la Salerno-Reggio Calabria. Tutti i dettagli anche da Alessandro Arona a pagina 13 del Sole 24 Ore. Salerno-Reggio Calabria senza cantieri, Renzi dice il 22 dicembre sarà inaugurata come promesso, mancano solo 800 metri di gallerie, sarà questa invece la prima estate senza cantieri e restringimenti di carreggiata sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Grazie all'apertura ieri la gran parte del lotto finale di 20,5 chilometri in Calabria, questo l'annuncio del Presidente del Consiglio. Insomma, staremo a vedere tra poco. Molti italiani già si sono mossi su quell'arteria, vedremo ad agosto e insomma speriamo che una di queste opere faraoniche, titaniche e di lungo corso sia veramente ultimata. Questo è l'auspicio credo per tutti gli italiani. E per quel che riguarda invece il centrodestra si guarda sempre a Parisi, gli articoli di giornale si concentrano su questo, Berlusconi rilancerà i moderati Parisi, questo è l'annuncio con l'investitura, il dado è tratto, Berlusconi che punta su Stefano Parisi, lo annuncia una nota della segreteria del leader di Forza Italia che ha incaricato il dottor Stefano Parisi di effettuare un'analisi approfondita della situazione politica organizzativa di Forza Italia, così si legge nel comunicato. In un comunicato in cui fa sapere Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, pagina 19, non viene mai citata la parola centrodestra, non compare nemmeno per sbaglio. L'idea è quella di trovare un termine inedito per indicare il nuovo polo moderato. Dunque, Parisi, che muove i primi passi all'interno di Forza Italia come organizzatore, pur non essendo un militante, ma che farebbe una sorta di super consulenza, fa sapere il Corriere. Tra l'altro Repubblica ha qualche frase strappata a Parisi, non proprio un'intervista, ma Andrea Montanari ne sonda gli umori. Questo avrebbe detto Parisi, ho un progetto e ne rispondo solo a Berlusconi, voglio creare un'alternativa liberale a Renzi, altrimenti la gente pensa che se il Premier perde il referendum e va a casa, poi vincono i 5 Stelle o c'è il baratro. Per questo serve un rinnovamento nei contenuti, Forza Italia deve tornare a essere forza di governo. Questa è la linea di guida su cui si muoverà Parisi. Anche se c'è da dire che all'interno di Forza Italia fa sapere tutti i giornali, ci sono già i malumori, chi lo guarda un po' con sospetto, come dire, è arrivato lui e rottama tutti noi. Questo è un gran classico all'interno di qualsiasi comunità, figurarsi all'interno di un partito. Va bene, questo è per quel che riguarda la politica, ma è interessante anche quello che racconta l'economia. Vado allora sul Sole 24 Ore, sono due le notizie principali, vale a dire la questione Monte Paschi e poi la questione che riguarda la finanza, cioè Vivendi Mediaset. Incominciamo da Monte Paschi Siena. Fanno sapere i giornali che l'accordo è sempre più vicino. Vi invito alla lettura del Sole a pagina 3. Luca Davi e Marco Ferrando, il piano Monte Paschi in BCE, aumento da 5 miliardi. A due giorni dal traguardo prende finalmente corpo con tanto di cifre quasi certamente definitive il piano di salvataggio in due mosse del Monte Paschi Siena, che si prepara a vendere al Fondo Atlante 9,6 miliardi di sofferenze nette e a imbastire un aumento di capitale da 5 miliardi. Cifra superiore alle previsioni formulate nei giorni scorsi, ma su cui sembra esserci l'assenso della BCE necessario a procedere. Per mettere nero su bianco l'intero schema ci sarà ad aspettare l'ultimo minuto venerdì prossimo, giorno per cui è convocato il CDA straordinario, che dovrà approvare oltre al piano anche i conti semestrali. Per alleggerire la banca di questi 9,7 miliardi di sofferenze nette occorrerà mettere in cantiere un aumento di capitale fino a 5 miliardi di euro. Si tratta di una cifra massima che potrebbe essere rivista anche al ribasso, quando il prezzo finale di cessione dei non performing loans permettesse di ridurre le perdite. Questo è dunque quello che si profila. 9,7 miliardi di sofferenze all'interno dei Montepaschi vendute, cedute a Atlante. Questo vedremo se si concretizzerà poi venerdì. Oh, invece il mondo della finanza è un po', soprattutto Mediaset, sotto shock. Il titolo ha perso molto in borsa ieri. Perché? Perché c'è stato un dietro front, non solo inatteso, ma giudicato assolutamente inaccettabile da parte di Mediaset, da parte di Bolloré e di Vivendi. Vivendi che ha fatto lo strappo su Mediaset Premium. Vivendi, come racconta Carlo Festa a pagina 5 del Sole 24 Ore, fa dietro front sull'acquisto di Premium, cioè la pay TV di Mediaset, e il gruppo italiano dissotterra l'ascia di guerra valutando vie legali per una somma superiore a 1,5 miliardi di euro. È un passo indietro che lascia di stucco il mercato, tanto che sono cominciate a circolare congetture sulla motivazione del gesto transalpino. Per alcuni addetti ai lavori, Vivendi punterebbe all'ammiraglia del gruppo, cioè Mediaset, e Premium era quindi solo un pretesto. Così, se da una parte la media company francese col suo amministratore delegato sembra gettare acqua sul fuoco insistendo sulla volontà di costruire una grande alleanza strategica con Mediaset, dall'altra parte il gruppo di Cologno accusa la controparte di una palese contraddizione con gli impegni assunti mediante il contratto firmato il 18 aprile scorso, un voluminoso documento che era stato redatto dai team dei legali di Chiomenti e di Carnelutti. E Fininvest, cui fa capo il 34,73% di Mediaset, denuncia con durezza l'eccezionale gravità e l'assoluta scorrettezza del comportamento di Vivendi. E ovviamente, come racconta anche Francesco Manacorda su Repubblica, le reazioni in casa Berlusconi sono di incredulità, ma anche di indignazione per questo voltafaccia dell'ex amico Bolloré. Perché se Vivendi rinuncia alle nozze previste, rilancia poi proponendo un nuovo accordo che la porterebbe presto ad avere il 15% di Mediaset. Insomma, dicono da Cologno Monzese, Vivendi vuol trasformare l'accordo industriale in una scalata mascherata a Mediaset. Una cosa inaccettabile sotto tutti i punti di vista per un gruppo come il nostro che ha un solido azionista di riferimento. Vista dall'altra parte, invece, la questione è cristallina. Già un paio di mesi fa Bolloré confidava a qualche amico di aver trovato una Mediaset Premium assai peggio messa di quel che pensasse. La dote di 120 milioni di euro di liquidità che avrebbe incassato accettando di comprarla rischiava di coprire appena le perdite di un anno. E dunque si sarebbe ricreduto dicendo Mediaset Premium è un buco e quindi non compriamo più. Anche per il Fatto Quotidiano, Silvio beffato, ora gli affari li fanno gli altri. Fabrizio D'Esposito racconta che in qualche modo Bolloré ha fatto lo squalo con lui, ha sentito l'odore del sangue, la sua strategia è diventata aggressiva contro un uomo di 80 anni appena operato al cuore. E da Caimano, che ha un uomo di 80 anni appena operato al cuore, che nel suo bunker di Arcore è apparso sconfortato per la svolta di Vivendi sin da lunedì sera, il Fatto Quotidiano parla di un Berlusconi sconfortato, infuriato, di colui che ha vissuto la giornata definita più orribile degli ultimi tempi. In tutto questo, signori, c'entra anche il mio povero Milan. Perché tutto questo fa slittare la vendita del Milan, si dice almeno di 15 anni, scusate, di 15 giorni o di 15 anni, non ho che ben capito, no, chiaramente di 15 giorni, la mia è un'amara ironia, ma insomma slitta ancora la vendita del Milan ai cinesi, un altro rinvio cinese, stallo al Milan, titolo di pagina 11 del giornale. Ah, come ci vorrebbe Mauro Meazza prendermi in giro a questo punto. Vabbè, Mauro Meazza è in ferie. Comunque, lo stallo al Milan, la cordata di Wu e Zheng chiede una settimana in più per motivi burocratici, quindi già una settimana in più dai cinesi, poi una settimana di stallo, pare questa vicenda Vivendi, Mediaset eccetera, da parte di Berlusconi. Il risultato è ancora questo. Vabbè, dai, andiamo al traffico. Tutto ciò premesso, traffico! Alessandro Milan, il bail-in dell'informazione. Bail-in! Ci sta, visti i tempi anche di banche sotto tiro. Allora, cari ascoltatori, gli statali, oggi parla il ministro alla funzione pubblica Marianna Madia, lo fa in un'intervista al Messaggero Andrea Bassi, perché c'è questa bozza del decreto che è circolata, che parla di statali licenziabili, statali che non avranno più il posto fisso. Beh, cerca di fare chiarezza Marianna Madia, intanto fa una polemica con il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che ha detto: è merito mio se abbiamo assunto un migliaio di maestre precarie nella capitale, nelle scuole di Roma. E la Madia dice: correttezza istituzionale vorrebbe che si dicesse la verità. È un segnale di debolezza. Il primo atto serio che si fa lo si fa dicendo una bugia. La norma che permette l'assunzione delle maestre precarie a Roma è stata approvata dal governo sulla base di un preciso impegno che avevo preso, cioè quello di far iniziare l'anno scolastico con una soluzione definitiva. È stato il frutto di un percorso serio e lungo iniziato a settembre dello scorso anno. Quindi incomincia questa intervista con Andrea Bassi sul Messaggero togliendosi questo sassolino dalla scarpa. Marianna Madia nei confronti del sindaco di Roma. E poi dice: l'incontro con i sindacati dal mio punto di vista è andato bene. Veniamo alla polemica. Secondo alcune bozze che circolano, quello pubblico non sarà più un posto fisso. Gli statali saranno licenziabili? Risponde il ministro: le bozze sono bozze, ne girano tante. Altra cosa è la decisione del governo che arriverà entro febbraio 2017. Affronteremo tutto a tempo debito. Quello che faremo sicuramente nel testo unico è confermare che per gli statali si applica sempre il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Detto questo, però, chi sbaglia deve essere licenziato. Dal Jobs Act invece prenderemo spunto per altre norme. Insomma, quindi non risponde, per il momento prende tempo. Quali norme verranno prese dal Jobs Act? Quelle per mettere fine al precariato nella pubblica amministrazione. Non dovrà più essere possibile utilizzare contratti precari per coprire esigenze di organico stabili. Questo Marianna Madia, statali, assunzioni mirate e mai più precari nella pubblica amministrazione. Questo è il titolo dell'intervista al Messaggero. A proposito di Roma, attenzione, perché torna la questione. Non è che torna la questione dei rifiuti c'è già da un po', ma torna la questione Malagrotta, la discarica di Malagrotta, i rifiuti sono per le strade, c'è grande polemica, c'è uno scontro tra il comune e il presidente dell'AMA Fortini che lascia, quindi è pronto il commissariamento dell'azienda. L'abbiamo avuto ospite una settimana fa, Fortini si diceva sicuro di poter dimostrare di essere in grado di rimanere, è stato di fatto defenestrato. E poi se n'è andato lui, insomma, comunque la rottura è evidente. E ritorna l'ipotesi di riaprire la discarica di Malagrotta, che è stata la maxi discarica, è stata chiusa. Virginia Raggi dice no, grazie, l'apertura della discarica di Malagrotta, mentre il RAS dell'immondizia, come si definisce lui, il primo monnezzaro del mondo, vale a dire Manlio Cerroni, proprietario di Malagrotta, 90 anni, fino a qualche anno fa dominus dei rifiuti romani, arrestato a inizio del gennaio 2014 con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti, ora libero ma in attesa di sentenza. Ebbene, dicevo, Manlio Cerroni rilascia un'intervista a Repubblica. Intervistato da Cecilia Gentile, dice: hanno chiuso la discarica di Malagrotta e non hanno realizzato una discarica alternativa come avevo proposto. Ecco perché Roma è entrata in emergenza. Insomma, per lei Roma non ce la fa senza una discarica? Sicuramente no, risponde Cerroni. Lo dimostra San Francisco, portata esempio dal sindaco Alemanno e da Marino. San Francisco ha una discarica che riceve gli scarti dei rifiuti trattati, pare al 25% del totale dei rifiuti raccolti. Comunque dice: io sono pronto a rimettere a disposizione il trito vagliatore che può trasformare in combustibile 1.000 tonnellate di rifiuti al giorno. L'ho fatto costruire nel 2013, quando l'Unione Europea vietò di portare rifiuti non trattati in discarica. Ha lavorato fino a 5 mesi fa, quando Fortini, cioè il presidente dell'AMA, che ora peraltro è in bilico, di punto in bianco smise di utilizzarlo. Da allora è cominciata la crisi di Roma. Insomma, riassume tutto così in chiusura di questa intervista Manlio Cerroni: invece di ringraziare la Madonna del Divino Amore che ci sono io, preferiscono far sommergere Roma da topi, cinghiali e altre schifezze. È un mondo di follia, me ne voglio andare. Sto in trattativa per lasciare tutto e andare a lavorare all'estero. Perché bisogna saper fare il proprio mestiere, io sono il primo monnezzaro del mondo. Così Manlio Cerroni, proprietario di Malagrotta. Riaprirà, non riaprirà, staremo a vedere. Ne parleremo di rifiuti, tra l'altro, dalle 9 alle 9.30, anche oggi. La RAI, ci sono ancora articoli. Alfano ha detto: è una vergogna che ci siano stipendi 6 volte più alti del Premier. Se la prende soprattutto dall'amministratore delegato Antonio Campo Dall'Orto. Il Giorno invece punta con Elena Polidori soprattutto il dito contro le consulenze. La domanda, come si dice a pagina 10, sorge spontanea: per quale motivo un'azienda come la RAI, che vanta al proprio interno maestranze sopraffine dal punto di vista ingegneristico, si deve avvalere di consulenze esterne pagate oltre 80.000 euro l'anno per i piani di sicurezza degli studi, per esempio, o per il loro adeguamento? Oppure per quale motivo la delicata questione di sicurezza del lavoro, a cui la RAI presta un'attenzione giustamente maniacale, deve essere affidata a un consulente esterno, consulenza a 162.000 euro? Va detto che le consulenze sono passate da 18 a 8 nel giro di un solo anno e che gli ingegneri esterni solo nel 2015 guadagnavano oltre i 100.000 euro, ma la domanda resta: perché cercare all'esterno quando dentro c'è davvero tutto ciò che serve? Ecco, inizia così un'analisi delle consulenze in RAI sul Giorno, esercito di consulenti superpagati, RAI nel mirino della Corte dei Conti. Dopodiché ci sono alcuni articoli di quelli che veramente questi andrebbero tutti messi da mani sul volante, uno dopo l'altro. Cominciate da questo, sentite questa storia. Vi ricordate la storia di David Raggi? David Raggi, vi dice qualcosa? Ucciso a Terni da un clandestino. Passava di lì, ha cercato di sedare, credo, una rissa. Un extracomunitario espulso 2 volte che gli tagliò la gola con un coccio di bottiglia. Ebbene, è successo questo. Sentite l'Italia. Nessun risarcimento all'italiano ucciso in strada dal clandestino. E perché nessun risarcimento? Lo spiega bene Luca Telese oggi in prima pagina di Libero. Quanto valgono i 27 anni di David, ucciso come un vitello? Poco o nulla per lo Stato italiano, lo abbiamo imparato ieri con sconcerto, nel modo grottesco in cui questo paese declina la sua morale traballante e asimmetrica, con una legge apparentemente asettica e una pratica in realtà feroce. David Raggi, sgozzato a Terni un anno fa da uno sbandato con un collo di bottiglia, lui, il David sorridente e ignaro che pubblichiamo anche nelle foto, guadagnava 13.500 euro l'anno. Ecco qui è il punto. Troppi, secondo i parametri dei risarcimenti civili, perché in questo paese ormai si muore per censo. David valeva poco perché era troppo ricco, con un punto esclamativo, ci spiegano gli avvocati. Dopo aver esplorato i paradossi di una legge demenziale, hanno capito che se ti ammazzano e guadagni 11.000 euro, i tuoi ottengono il risarcimento. Se guadagni 13.500 euro sei considerato un privilegiato, troppo ricco, non vali più nulla. Ed eccolo qui, ammazzato da un clandestino, niente rimborso perché è ricco, così è scritto. Ricco, 13.500 euro l'anno, considerato non meritevole di un rimborso per la legge. La burocrazia, la fredda legge, la fredda burocrazia, quella fredda burocrazia che ancora oggi Sergio Rizzo racconta sul Corriere della Sera, pagina 21. La faccio vedere, siamo in diretta sulla mia pagina Facebook, la mia pagina pubblica, potete guardarmi in questo momento, non è un bel guardare, ma insomma vedete di accettare quel che passa al convento. Ebbene, Sergio Rizzo parla appunto di burocrazia e racconta del regolamento edilizio, una Babele che ha impiegato, che ha messo attorno al tavolo per più di 21 mesi burocrati, esperti, per dare tutte le definizioni, come definire il sottotetto, il sopratetto. detto. 21 mesi per il regolamento edilizio, per la Costituzione ce ne ha messi 18. Sergio Rizzo, eccolo qua, in 18 mesi, 70 anni fa, abbiamo fatto la Costituzione. In 21 non siamo ancora in grado di scrivere un regolamento edilizio uguale a tutti i comuni italiani. Altri tempi, certo, per carità. Ma la redazione del regolamento edilizio previsto dallo Sblocca Italia, pensate l'ironia, Sblocca Italia, è affidata a un pool di burocrati tanto eterogenei quanto litigiosi. Per capire, ci sono messi finalmente d'accordo convenendo che il sottotetto è, virgolette, lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante. Io ci vorrei parlare con gente che scrive così. Oppure un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili, è la veranda, minchia, la veranda, la banale veranda. Ecco. La superficie. La regione Lombardia pianta una grana che alla fine di definizioni di superficie ne vengono ben 6. Superficie lorda, totale, complessiva, utile, calpestabile e accessoria. La superficie! 6. Vabbè, dai, fermiamoci qui. La veranda. Ridefinitemi la veranda con le parole testuali che ho appena letto. Va bene. Siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo una pagina di Libero, dove c'è Claudio Savelli che racconta: gioca col VIP. Non so, sei in spiaggia e vuoi giocare a calcio con Bobo Vieri? Vuoi giocare a foot volley con Borriello? Ma dai! Ma chi se ne frega!